gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e questa sera sono qui per portarvi una di quelle poesie che tutti devono aver letto almeno una volta nella vita. È Rudyard Kipling e questa poesia si chiama Se, lettera a un figlio, scritta alla fine, a cavallo tra il 1800 e l'inizio del secolo scorso. Credo che sia una di quelle poesie che guidano la vita di tutti gli uomini che l'hanno letta e tutte le donne che l'hanno letta. È una poesia che ti spinge al confronto con la vita, al confronto con gli altri, e ti fa riflettere su quanto molte volte il nostro cervello, il nostro corpo, la nostra vita sia portata a sedersi, portata a seguire il flusso, portata a seguire la linea che ha sempre seguito, l'abitudine di fare le cose comode. Se riesci a tenere la testa a posto quando tutti intorno a te l'hanno persa e danno la colpa a te, se puoi avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma prendi in considerazione anche i loro dubbi, se sai aspettare senza stancarti dell'attesa, o essendo calunniato non ricambiare le calunnie, o essendo odiato non dare altro spazio all'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare da troppo da saggio, se puoi sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni, se puoi pensare senza fare dei pensieri il tuo scopo, se sai incontrarti con il successo e la sconfitta e trattare questi due impositori allo stesso modo, se riesci a sopportare di sentire la verità che hai detto distorta da imbroglioni che fanno una trappola per gli ingenui, o guardare le cose per le quali hai dato la vita distrutte e piegarti a ricostruirle con strumenti usurati, se puoi fare solo un mucchio di tutte le tue fortune, rischiarlo in un unico lancio di una monetina e perdere e ricominciare da capo senza mai fiatare una parola sulla tua perdita, se sai costringere il tuo cuore, nervi e polsi a sorreggerti anche quando sono esausti e così resistere quando in te non c'è più nulla tranne la volontà che dice loro resistete, se riesci a parlare al folle e a conservare la tua virtù, o a passeggiare con i re senza perdere il contatto con la gente comune, se non possono ferirti né gli amici né i nemici, se per te ogni persona conta ma nessuno troppo, se riesci a riempire ogni inesorabile minuto dando valore a ognuno di ogni quei 60 secondi, la tua terra è tutto ciò che contiene, e la cosa più importante, sarai un uomo figlio mio. È difficile se sono queste le condizioni e i criteri per stabilire che è un uomo, difficile dirlo quante volte lo siamo stati. Non vorrei. Ma se vuoi. Dove vai? Quando poi resti sola, il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu,